Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siete sempre sintonizzati su 96.25 MHz e anche sull'altra frequenza che regolarmente, non mi ricordo, no, 94.7. Beh, noi festeggiamo il decennale così, no? Non ricordandoci. Non ricordiamo niente, non sappiamo neanche in che radio in realtà siamo, però insomma l'abbiamo già detto, dunque siamo sempre a Radio Città del Capo, però alle volte abbiamo anche dei buchi mnemonici causati da varie questioni di cui non possiamo parlare perché siamo sempre sotto lezioni, lo sapevi? Sì, è lezioni continue. È una lezione continua che non sappiamo, in realtà non sappiamo di votare in continuazione dalla mattina alla sera, ma in realtà lo facciamo. Sì, per cui non possiamo parlare. Siamo tipo in Svizzera, però non ci siamo accorti ancora di essere in Svizzera. Appunto, per cui insomma, dei referendum continui. Continui, nella nostra vita quotidiana in realtà votiamo sempre, anche quando andiamo in bagno. Bene, al di là di questo, perché c'è stato quel periodo famoso in cui non si poteva dire niente e adesso noi continuiamo a non dire niente, in realtà diciamo molte cose però sotto altre vesti o forse attraverso altri codici. Bene, 451 frammenti sono... È un po' di esoterismo, sai, ormai qua, siccome nessuno sa più che pesci prendere, ci siamo l'esoterismo. Sì, oppure su 2012, la fine del mondo, tutte queste cose, ci sono... Dipende come finisce, insomma, se ci divertiamo. Vedi che poi non è così tanto importante trovare il lavoro, se finisce, scusa, tra un anno e mezzo. Che senso ha, no? Qual è il problema della disoccupazione? Appunto, andiamo tu oltre, ti preoccupi, no? Tanto. Io mi preoccupo troppo, però sai, la vita è così, no? Un po' di dadaismo, un po' di follia, un po' di futurismo, appunto, un po' di afrofuturismo, certo, appunto. Anche quello. Su questo stasera ci diciamo approfondiremo il discorso che avevamo già affrontato nel passato, cioè qualche puntata fa, una puntata dedicata appunto all'afrofuturismo, a questo movimento della diaspora africana, e la cosa importante appunto di stasera è che abbiamo pensato di colorare la serata, la nottata di 451 frammenti sonori, che ricordiamo anche potete riascoltare, potete anche intercettare attraverso il web, sul nostro noblog, esattamente 451frammentisonori.noblogs.org, il nostro sito dove appunto abbiamo collocato le varie trasmissioni da ottobre dello scorso anno fino ad oggi, dove potrete ovviamente ritrovare la scaletta delle trasmissioni, dunque dei brani e degli autori che abbiamo inserito nelle trasmissioni passate, in più anche il podcast in formato MP3, dove potete sia ascoltare online ma anche scaricare le puntate di 451 quando appunto l'orario è troppo avanzato e dovete andare a dormire sempre per la faccenda del lavoro o del non lavoro, ma in ogni caso insomma potete riascoltarlo senza problemi. Anche questa puntata finirà dentro il nostro no blog. E appunto questa puntata di qualche settimana fa dedicata all'afrofuturismo, fra jazz d'avanguardia e jazz cosmico, le origini e il futuro, questo era il titolo. Stasera invece abbiamo declinato, sempre dentro questo tema dell'afrofuturismo, un altro titolo, diciamo numerando questo argomento come Afrofuturismo 2, e appunto l'altro sottotitolo di stasera è Tecno-Elettro-Funk. Che cos'è Tecno-Elettro-Funk? È quello che succede immediatamente dopo gli anni 70, che per molti versi sono stati l'inizio, se non per meglio dire lo sviluppo dell'afrofuturismo, diciamo che come padre assolutamente Sarra, quindi già negli anni 50, quando si parla di distopie, di utopie veramente portate all'eccesso e quindi anche appunto una visione discotopica, e Sarra con già i primi dischi porta all'eccesso, quindi a una sorta veramente di viaggio infinito, che in effetti passando attraverso tutta o buona parte del free jazz e del post free arriva in maniera assurda, e questo che ci interessa molto qua questa sera 451, attraverso i club, una forma appunto di funk elettrizzato che poi si trasforma in techno e che riprende gli spunti che sono stati dei 70 appunto sviluppati dentro quella faccenda piuttosto strana che è stata il post free, strana nel senso che è uscita fuori dal suo stesso seminato, andando appunto a inventarsi una sorta di escapismo fantascientifico dove la popolazione afroamericana, immaginandosi probabilmente un'Africa spaziale cosmica, ridefiniva in una certa maniera, colonizzava un immaginario, anche uno spirito sicuramente di lotta, ma anche appunto di fuga cosmica. Le due cose per molto tempo sono state dialettiche, se qualcosa vuol dire la dialettica tra lotta e fuga, ma il discorso insomma è piuttosto complesso e stratificato, come buona parte della cultura nera ci dice. Basta guardare i film di Spike Lee per capire quanto sia stratificata la cultura nera, soprattutto afroamericana. Poi capiremo che l'afrofuturismo non è soltanto faccenda degli States, ma attraversa anche ad esempio l'Inghilterra, che questa sera comunque sarà in minima parte, ma comunque ci sarà appunto e sarà presente. E iniziando quindi con Anello di congiunzione, se esisteva il P-Jazz di Sarra, esisteva anche qualche decennio fa, siamo alla fine degli anni 70, primi anni 80, il P-Funk, quello di George Clinton, che a dire la verità era già iniziato qualche anno prima, ma si declina in chiave assolutamente tecnologica proprio in quel periodo, sia con Funkadelic che con il suo disco e i suoi dischi solisti, soprattutto Computer Games, che darà via insomma questa forma di dance spaziale, questa forma di escapismo, di fantascienza clubistica, se vogliamo chiamarla così, che appunto poi informerà tutto il resto. George Clinton con il suo Computer Games e col suo cane atomico. Cane atomico. Cane atomico. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, counting dog, funky dog. Nasty dogs. Atomic dogs. Atomic dogs. And life on the cross. When you're out there walking the street, compete. You may compete. But the dogs. Do the dog catcher. Dog. got the dog in me. Computer Games, storico album. Bellissimo disco, importante sul, dal punto di vista storico. Non a caso questo autore era anche citato in maniera esplicita anche dall'articolo da cui abbiamo anche preso spunto sul discorso afrofuturista. Per cui da Clinton, che è stato un autore assolutamente fondamentale nel periodo degli anni 80, nei primi anni 80, questo in realtà da Computer Games, che era precedentemente un singolo uscito nell'81, poi il disco completo nell'82, è un punto di partenza. Infatti poi stasera affronteremo... O di ripartenza. Aspetta. Partiamo dagli anni 80 per arrivare appunto ai giorni nostri e anche oltre, tenendo appunto come tema la techno electro funk. George Clinton ovviamente sta dentro questo discorso elettro, e facendo un discorso di percorso storico abbiamo deciso così. Ecco, l'altra volta ad esempio le carte si erano un po' mixate e mischiate, dunque abbiamo lavorato sugli anni in cui si rimpallavano tra gli anni 70 e gli anni 0, mentre ora abbiamo deciso di fare un discorso, un percorso filologico storico, partendo da Clinton e arrivando a un altro autore che insomma non ha bisogno di grandi presentazioni, se non per il fatto che è stato un jazzista che si è rimesso in gioco già negli anni 70 con il suo funk assolutamente già afrofuturista, assolutamente di riferimento. Infatti, di riferimento, un autore che già aveva dentro tutta la connotazione afrofuturista e afrocentrista, non a caso poi anche i dischi, le copertine, le immagini che venivano elaborate dallo stesso Hancock o comunque decise e scelte dallo stesso Hancock rimandavano a tutto un immaginario che ha attraversato poi il fenomeno e la corrente afrofuturista, che ricordiamo come definizione, come corrente letteraria, musicale, artistica e creativa e anche chiaramente politica, si è sviluppata all'inizio degli anni 90, nel 94, attraverso questo saggio assolutamente seminale e fondamentale che è Afro Black to the Future, Afrofuturism 1.0, del critico Mark Derry, 94 esattamente la definizione afrofuturismo. E appunto Herbie Hancock, che poi anche negli anni 80, mantenendo questo filo rosso dal funk, dal jazz jazz e poi il funk, e arrivando all'elettro con una forma assolutamente personale, abbiamo scelto un disco che è successivo al disco che ebbe un grande successo, che fu Future Shock, ed è Sound System del 1984. Abbiamo selezionato un extra track, un remix di uno splendido lavoro che è la seconda traccia di Sound System, e ce l'andiamo a questo punto a sentire, a godere insieme. Yeah. Grande Don't Stop, grande, grandissimo brano, Planet Rock Remix 1982, un personaggio assolutamente fondante per gli anni 80, per la comunità nera, Africa Bambaataa, un brano che molti ricorderanno soprattutto della generazione vicina alla nostra, perché eravamo ragazzi, ragazzini all'epoca, un brano che sicuramente ebbe molto successo e ebbe anche questa grande capacità di sfondare sul piano, tra virgolette, uso questo termine, passatemelo, commerciale, sì, è vero, degli anni 80, ed è molto importante anche in Italia, perché era un brano che funzionò moltissimo, vendette molto, fu ascoltato e fu allo stesso Africa Bambaataa anche invitato in trasmissioni degli anni 80 italiane, dove si presentò, sì, più verso la metà, sì, però, verso certo la metà, anche per però comunque successo, anche attraverso questo successo. Ed è importante perché, insomma, la musica nera ha sempre fatto una fatica incredibile ad entrare nell'universo musicale anche commerciale italiano, sia già dagli anni 60-70 e ancora adesso fa fatica. Non è un caso che difficilmente si riescono ad avere elementi, informazioni e storia intorno ai personaggi della musica afroamericana ancora oggi, e Africa Bambaataa con Planet Rock sicuramente è stato fondante anche per lo stesso movimento afrofuturista e per la comunità nera, che negli anni 80 puntò per la propria sopravvivenza e per la propria combattività dopo gli anni 60-70, dove ovviamente l'elemento artistico, sociale e politico era strettamente intrecciato, ritrovare appunto una propria identità e una propria combattività sul piano degli anni 80, sul piano del reaganismo che stava per, insomma, anzi era già e stava per trionfare in America, un immaginario costituito da videogames, infatti molti suoni ricordano il periodo appunto anche dei videogames, i primi videogames a cui anche noi eravamo legati, siamo appunto computer games di George Clinton, ma siamo anche cresciuti appunto nelle sale giochi, suoni appunto legati ai videogames, legati ad film d'animazione, a cartoni animati, al videoclip, cinema, al cinema di fantascienza, al gergo hip hop che stava emergendo attraverso il fenomeno rap, electro e chiaramente l'hip hop che poi sarebbe esplosa come linguaggio musicale anche negli anni 80 successivi, fino ad arrivare poi oggettivamente ancora ai giorni nostri. Africa Bambaataa, dunque, un manifesto vero e proprio, tant'è che citato anche da esponenti del movimento afrofuturista come un brano in particolar modo fondamentale. Ed Africa Bambaataa abbiamo anche fatto un bel passaggio, storico, epocale. Sì, perché la faccenda si complica ulteriormente. Facciamo un po' di chiarezza, se già non vi siete persi, magari è possibile. Sì. Allora, prima trasmissione di Afrofuturismo, trattando gli anni 70 post-free, il free funk, free jazz, però appunto in una dimensione postuma, sviluppa quello che poi sarà anche il funky liberato di George Clinton e dei Funkadelic, un certo jazz psichedelico, funkeggiato e anche con commissionato con l'elettronica, appunto Herbie Hancock, quindi i due punti di riferimento d'inizio di Afrofuturismo 2. Funky elettronico di Africa Bambaataa porta a compimento il lavoro assolutamente seminale appunto di Clinton, Hancock e di quelli passati da Sarra in poi, e succede una cosa veramente straordinaria, ovvero tutto il movimento elettro, buona parte, ha grande successo, si sviluppa una sorta anche di moda che arriva ad esempio in Italia con la breakdance, prima citavi, vero, tante cose, vero, anche la danza, i graffiti che sono fondamentali dentro anche il discorso non soltanto hip hop ma anche afrofuturista, visto che molta arte afrofuturista si sviluppa proprio con il graffito, e riunendo anche un discorso legato alle antiche avanguardie, perché antiche si fa per dire, insomma le prime avanguardie che lavoravano molto su l'effimero, sulla strada, sulla facendo appunto di creare cose lì sul momento dentro le città, ma non solo, anche murales ad esempio messicani, quanto debbono al futurismo italiano, che lavorava appunto su addirittura arti applicate come le piastrelle, la piastrellistica, e appunto una sorta di murales già preconizzato per molti versi anche da futuristi russi durante la rivoluzione. Si arriva a una elettrificazione totale di questo suono, un suono che scatta poi in avanti attraverso anche fenomeni sociali come il grande licenziamento a Detroit a metà degli anni 80, e l'elettrofunk si trasforma in techno, si trasforma con continuità, perché ad esempio Model 500, Joan Atkins, che andiamo appunto ad ascoltare tra poco, era un figlioccio diretto di Africa Bambaataa con i Cybotron, dove appunto faceva elettrofunk con quella diramazione particolarissima appunto di quel suono cupo cittadino, decisamente urbano, che sarà appunto e visionario, che sarà quello della techno, citando insomma così per sommi capi il lavoro che stiamo facendo dentro Afrofuturismo 2. Vi lasciamo a Model 500, a No UFOs Mix, a Carl Craig da More Son About Food and Revolutionary Art, e Drex Shea, che forse è il punto più visionario di tutta la faccenda afrofuturista in declinata in salsa techno questa sera, Drexia da The Quest. Dopo Radio Giornale, eh sì, poi rientriamo in diretta dopo il giro di Radio Popolare, sempre intorno a 00:50 per la seconda parte di Afrofuturismo. by YCC.